questo venerdì 16 novembre. Intanto uno sguardo ai titoli. Il Sole 24 Ore apre sugli stati generali della cultura. Napolitano: più cultura e ricerca, meno burocrazia. Questo è il titolo di prima pagina. Repubblica intervista il ministro dell'interno Cancellieri. Punirò i poliziotti violenti. Questo è il titolo dell'intervista, che è il titolo anche di apertura di Repubblica. Il Giornale invece: i delinquenti nei cortei, quei bravi ragazzi. E ci sono una serie di foto di persone incappucciate in azione. Poi la politica, il Corriere della Sera: si tratta sul voto a marzo. La Stampa: election day, tensione PD-PDL, ma Monti prova a mediare. L'Unità: il PDL ha paura di votare. Il Messaggero: election day, si tratta. Poi c'è Pubblico, che apre ancora sugli scontri. Disperazione Italia, le proteste in piazza esprimono il disagio del paese. Libero invece sulle pensioni: chi li ha visti? Pensioni truffa. Chi li ha visti sono Fornero e i suoi due sottosegretari, Guerra e Martone, perché Libero dice non ci rispondono sull'inchiesta pensioni. Cenone di Natale della casta, il Fatto Quotidiano: più di 1 milione di corsi per i corsi di inglese, 8 milioni e mezzo per i rimborsi viaggio, 5,7 milioni per i pranzi. Un po' di conti dalla casta. Paura in Medio Oriente invece titolo Avvenire, e Striscia di sangue, la Striscia di Gaza, il Manifesto. Dunque apertura sullo sguardo sui temi internazionali, sul Medio Oriente, Israele e la Palestina in particolare. Prima però voglio partire da questo. L'avevamo detto, state attenti, cari ascoltatori, i decreti poi devono essere convertiti. E qui il sottosegretario Polillo, gli avevo fatto una domanda al sottosegretario dell'economia: sottosegretario, ma allora Fiorito e i consiglieri regionali, Nicol Minetti, prenderanno o no questo benedetto vitalizio? Io non l'ho ancora capito. E lui: no, è stato fatto un decreto del governo attuale per porre un argine a questa cosa. Ora bisogna avere 66 anni e avere fatto almeno 10 anni da consigliere regionale per prendere il vitalizio, altrimenti no. Certo, Polillo aveva detto: a meno che il decreto poi in Parlamento venga cambiato. Secondo voi com'è andata a finire? Sergio Rizzo, oggi sul Corriere della Sera, pagina 15, la beffa dei vitalizi regionali, resistono alla legge antifiorito. Erano scommesse per le quali non si prendevano neanche le quote dai bookmakers. Sergio Rizzo: mai più vitalizi regionali a 50 anni, era la promessa. Anche i governatori si erano dichiarati d'accordo, e dunque eccolo lì il decreto del governo. Ma poi, appena arrivato in Parlamento, tutti contrari, soprattutto i 280 ex consiglieri regionali che siedono in Parlamento, che non lo avrebbero preso questo vitalizio e che hanno iniziato a mettersi di traverso. Appena il decreto Monti è arrivato in Parlamento con questa tagliola, ecco le bordate. Chi proponeva di dimezzare il numero degli anni di mandato sufficiente a godere della pensione, dunque da 10 a 5. Chi esortava a abbassare l'età da 66 a 60 anni. Chi chiedeva di prevedere il riversamento dei contributi previdenziali al consigliere regionale nel caso di impossibilità di godere della pensione. Chi, non contento, non cessava di invocare la soluzione più radicale, il colpo di spugna al decreto. Alla fine è stata trovata una formuletta magica. È bastato inserire alla fine della lettera M dell'articolo 2, quello che stabilisce i limiti minimi dei 60 anni d'età, la seguente frase: le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano alle regioni che abbiano abolito i vitalizi. E siccome tutte le regioni per il futuro hanno abolito i vitalizi, ecco che la regola del 66 anni e 10 anni di consigliatura regionale non si può applicare a nessuna regione. Questa è la formula che hanno trovato. La beffa dei vitalizi regionali resistono alla legge antifiorito. Così anche il Fatto Quotidiano la mette a pagina 2: salvo il vitalizio regionale. Oh, siamo tutti contenti. Paola Zanca racconta sempre questa lettera M all'articolo 2: le disposizioni di quella presente lettera non si applicano alle regioni che hanno abolito i vitalizi. È così, cari ascoltatori, coloro che sembravano il bersaglio della legge, a cominciare da Batman, dice e conclude Sergio Rizzo nel suo articolo, proprio loro beneficeranno del vecchio sistema. Se ne parlerà per il futuro di abolire, i prossimi che verranno non ce l'avranno, ma quelli che ci sono e che hanno ottenuto una sponda parlamentare non indifferente ce l'hanno fatta. Ora, come leggere alla luce di tutto questo l'intervista che Giuliano Amato, l'ha detto, ieri l'avevamo anticipato e oggi è uscita 7, lo ha detto proprio così a Vittorio Zincone: in Italia tutti vogliono i parlamentari giovani che facciano al massimo 2 mandati, giusto? Giusto, chiede Zincone, dice certo. E tutti sono indignati per i vitalizi che arrivano a 65 anni, giusto? Sì, giusto, presidente Amato. E quindi un trentenne eletto in Parlamento dopo 2 mandati, cioè a 40 anni, cosa dovrebbe fare mentre compie i 65 anni? L'esodato di Stato? Queste testuali parole ha usato Amato. L'esodato di Stato cos'è? Un nemico da punire solo perché ha fatto politica? Beh, lei cosa propone allora? Un'indennità di reinserimento, che tra l'altro tra parentesi c'è già. Chiusa parentesi. 2 anni di vitalizio anticipato mentre cerca lavoro, ma nessuno ha il coraggio di deciderlo. Ecco, ci fosse Giuliano Amato, deciderebbe questo. Da sette è l'inserto del Corriere della Sera. Vi devo fare un quiz prima di lasciare alla pubblicità. L'ho fatto prima anche ai miei ospiti al bar di Radio 24 alle 6:30. Ma per chi non era in collegamento lo rifaccio. Chi era in collegamento non può, perché sa già la risposta, quindi non dovete rispondere. Questa è la frase: dovrete tutti un giorno chiedermi scusa. Chi l'ha pronunciata secondo voi questa frase? A. Nelson Mandela. B. Aung San Suu Kyi, la leader birmana. C. Il comandante Francesco Schettino in un'intervista esclusiva al Giornale 24 Mattino. Allora, avete risposto nella vostra mente al quiz chi ha detto un giorno dovrete chiedermi scusa, se A. Nelson Mandela, B. San Suu Kyi oppure C. il comandante Francesco Schettino in un'intervista esclusiva al Giornale. C'è un leggero aiutino nella formulazione della domanda. Comunque, ai vostri messaggi al 349-238-6666 tutti dicono siamo sicuri, è Schettino. Chi lo sa, lo vedremo al termine della rassegna stampa. Allora, intanto la politica, Election Day. L'Election Day si tratta su marzo. Sapete che c'è questo dibattito di accorpare le elezioni regionali e politiche. Dicono molti politici per risparmiare, in realtà sono gli stessi politici che l'anno scorso per risparmiare non hanno accorpato, invece non hanno trovato il motivo per risparmiare accorpando amministrative e referendum. In realtà il motivo è politico, è quello di risparmiare i soldi, è una scusa belle buona. Comunque si tratta su marzo, questo è il tema che emerge dai titoli dei giornali. Napolitano è dato per preoccupato, scrive il Sole 24 Ore a pagina 23. Non taglio solo nastri, ha detto, i partiti si assumano le loro responsabilità. Comunque l'idea di marzo come data per accorpare sia regionali, quindi spostando le regionali che sono state indette per febbraio, 10 febbraio, come ipotesi, e anticipando invece la data naturale della scadenza di un mese, non il 7 aprile si dovrebbe votare, ma appunto marzo, è un'ipotesi che si sta concretizzando, questo almeno nei dialoghi tra i partiti, anche se poi deciderà il Quirinale. Infatti Marzio Breda sul Corriere della Sera pagina 3 racconta il Quirinale e i 2 possibili scenari. Election Day, tensioni nella maggioranza, elezioni regionali, voto anticipato. Il Quirinale segue tutto da vicino con preoccupazione. È ciò di cui ha parlato Giorgio Napolitano con Mario Monti a tarda sera, un dossier complesso pieno di intrecci istituzionali, ma il capo dello Stato lo ha da giorni davanti a sé. È una cosa, ripeto, molto molto tecnica, c'entra i rapporti della politica, le prerogative esclusive del capo dello Stato, che insomma Marzio Breda riassume in questo articolo. Certo, l'accelerazione è possibile solo di fronte a precisi atti politici e non per una fibrillazione dei partiti. Ecco, questo è il tema su cui Napolitano si sta interrogando. Una considerazione di fondo è questa: perché imprimere un'accelerazione verso il voto politico anticipato se non ci sono chiari segnali che vanno in questo senso? Scrive Marzio Breda, cioè uno può sciogliere le Camere in maniera anticipata se c'è un segno di crisi oppure se c'è un motivo valido, non perché i partiti lo chiedono o perché i partiti sono in fibrillazione e vogliono votare un mese prima. e quindi questo è un primo punto sicuramente da dirimere. Comunque sarà uno dei dibattiti politici, perché segue la politica nei prossimi giorni, quando si voterà e se si voterà tutto insieme. Uno degli altri dibattiti è: ma Mario Monti, secondo voi alla fine finirà davvero questa avventura e basta? Oppure, come scrivono oggi il Corriere, Repubblica, in due retroscene abbastanza simili, Francesco Verderami sul Corriere e Carmelo Lo Papa su Repubblica, Mario Monti sta pensando di candidarsi. Questa volta non è così scettico e, secondo Carmelo Lo Papa su Repubblica, pagina 11, il premier non esclude più di ricandidarsi, o meglio candidarsi, visto che la prima volta non si è candidato, di candidarsi per il 2013. Questo perché nasce domani un agglomerato politico che mette insieme il ministro Riccardi, il leader CISL Bonanni, il presidente delle ACLI Olivero, o meglio non è ancora politico ma è una formazione, il presidente della provincia di Trento Lorenzo Dell'Ai, possibile nome Italia Civica. Ed è proprio a questo, scrive Carmelo Lo Papa, che guarderebbe Mario Monti con interesse. Domani la convention che trasformerà il movimento in partito, Italia Civica è il nome appunto ipotizzato, il presidente del Consiglio se ne terrà per ora lontano, ma solo fisicamente. Il cantiere è tenuto adesso sotto stretta osservazione da Palazzo Chigi. Questo è il quadro di riferimento, dunque, delle personalità, come detto, Montezemolo, il ministro Riccardi, il leader CISL Bonanni, il presidente delle ACLI Olivero e il presidente della provincia di Trento Lorenzo Dell'Ai. È a questo che guarda Mario Monti? Chissà. Intanto sono schermaglie sia del centrodestra con Alfano che resiste e convoca le primarie, mentre in un retroscena del Corriere della Sera Paola Di Caro pare che Berlusconi abbia continui a definirle inutili queste primarie. Mentre dalla parte del centro-sinistra c'è l'attacco di Renzi, o meglio dei renziani, uomini vicini a lui, che dicono: attenzione, c'è questa parola anche utilizzata da Reggi, Roberto Reggi, il portavoce delle primarie per Matteo Renzi, ci sono degli scagnozzi del segretario Bersani già in azione. L'Unità mette questo titolo a pagina 7, l'attacco della Leopolda, scagnozzi del segretario, durissimo intervento di Reggi che invita i sostenitori a presidiare i seggi, i sostenitori di Renzi. E così anche anche su Libero, la denuncia shock dei renziani: Bersani sta già facendo i brogli. Elisa Calessi racconta in prima pagina di Libero. Vabbè, sono schermaglie ovviamente politiche in vista delle primarie. Intanto ci sono ancora polemiche, noi ne parleremo alle 8:30, per le scene di violenza che si sono registrate due giorni fa, soprattutto a Roma. Bisogna partire da un'intervista al ministro dell'Interno Anna Maria Cancellieri, che è intervistata da Carlo Bonini su Repubblica. L'intervista è l'apertura di prima pagina e dice: punirò i poliziotti violenti. Repubblica porta alcuni filmati al ministro, che già ieri aveva espresso piena solidarietà alla polizia e alle forze dell'ordine. Oggi ribadisce comunque le forze dell'ordine si sono mosse in maniera positiva, la piazza deve rispettare la legalità. Ma poi, quando vede alcuni filmati di Repubblica con alcune persone inermi, apparentemente inermi, colpite mentre erano a terra, la cancelliera dice: non avevo visto queste immagini sono nuove per me, questa violenza su un inerme è intollerabile, è ingiustificabile. Lo dice appunto nell'intervista di Carlo Bonini, che trovate a pagina 6. Questo poliziotto sarà identificato subito. Sono io ora a voler sapere chi è. Faremo le dovute valutazioni e ne trarremo le conseguenze. Lo dico però e lo ridico: sono stata il primo a complimentarmi col Dipartimento di Pubblica Sicurezza per la scelta di mettere in rete le immagini girate dalla polizia scientifica. Alla domanda di Bonini: non aiuterebbe il rispetto democratico identificare gli agenti con segni distintivi? Guardi, francamente non ho ancora deciso se ha più ragione chi sostiene questo o se al contrario sia fondato il timore degli operatori, che temono che questo metterebbe a rischio loro e le loro famiglie. Poi il ministro se la prende molto con Beppe Grillo. Sentite che parole usa, non proprio da tecnica ma molto da politica, anche arrabbiata. Grillo che dice: caro poliziotto, in pratica togliti il casco e unisciti ai ragazzi. È un qualcosa di irresponsabile, un esempio di sciacallaggio politico, dice Anna Maria Cancellieri. Il paese non ha bisogno di altri Masanielli, ne ha avuti abbastanza. E peraltro il Masaniello originale non aveva nemmeno questo tono torvo e truce. Come si fa a evocare la guerra? Che c'entra quel richiamo a Pasolini? Di quale Italia stiamo parlando? In questo modo non si guida un paese, ma lo si porta alla distruzione. E questo dunque l'accusa molto dura di Anna Maria Cancellieri, anche se Repubblica mette insieme un video nuovo che viene postato sul sito, abbastanza inquietante, perché si vedono chiaramente, un'immagine amatoriale, che ci sono dei fumogeni che sembrano partire, dei lacrimogeni, quindi c'è la scia di fumo, che sembrano partire dalle finestre del Ministero della Giustizia, dall'ultimo piano, cioè come se qualcuno dall'ultimo piano del Ministero della Giustizia abbia sparato dei lacrimogeni sulla folla sottostante. Quei lacrimogeni lanciati dal Ministero della Giustizia è il titolo, infatti, del video. Pubblico, avremo il direttore Luca Telese con noi alle 8.30, invece intervista Daniele Vicari, che è il regista che ha scritto e filmato il film Diaz, quello dove si denunciavano le violenze della polizia al G8, e dice: questa politica ha fallito, ora ho paura per gli studenti. Insomma, il clima è molto intenso e molto teso, anche perché si temono altri scontri di piazza. C'è anche il giornale che invece la mette in modo opposto, caccia al poliziotto, ecco tutte le foto delle aggressioni dei manifestanti alle forze dell'ordine. Insomma, questi temi, ripartiamo dall'economia tra poco. Allora, eccoci qua, sono le 7.46 minuti, devo rispondere a un messaggio che ci manda un consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, sì, che ci scrive: questo è il vostro numero, sì, è il numero per i nostri messaggi, il 349-238-6666, dove ci ha appena mandato un messaggio. L'economia, continua l'iter del decreto di della legge di stabilità, racconta Marco Mobili nell'articolo a pagina 8 sullo speciale manovra come cambiano le tue tasse. Oggi ci sono ancora tante pagine interessanti, per esempio sulle detrazioni per i figli, che divide dipendenti autonomi, ma invece per quel che riguarda la produttività, taglio da 250 milioni. Questa è la novità. Nel 2013 le risorse scendono a 950 milioni perché alcune risorse sono state dirottate, vanno agli interventi alti alluvioni. Questo titola Marco Mobili. Certo, sul disegno di stabilità c'è una polemica che soprattutto il Secolo XIX, il Fatto Quotidiano, portano avanti, e riguarda Venezia. Il Secolo XIX è molto duro, anche forse per ragioni di bandiera, di rivalità tra Genova, Venezia e altre città portuali. Ebbene, e la mette così infatti il Secolo: Venezia Blitz, 100 milioni per il porto. In manovra c'è stato un finanziamento da 100 milioni di euro, appunto, tra le pieghe, scrive Alberto Quarati in prima pagina del Secolo, tra le pieghe del maxi emendamento alla legge di stabilità spunta questo tesoretto per il porto offshore, ossia di altura, di Venezia. Un progetto contrastato da porti vicini come Trieste, ma anche da Genova, l'eterna rivale. Ebbene, chi ha sponsorizzato, scrive il Secolo e denuncia, chi ha sponsorizzato questi 100 milioni? Beh, i due relatori al provvedimento sono Renato Brunetta, che è proprio di Venezia, e invece Pierpaolo Baretta, che è veneto. Ecco qui l'accusa, l'accusa nel senso, come dire, un favoritismo, ecco, 100 milioni per il porto offshore di Venezia, in manovra il finanziamento, c'è tra l'altro l'intervento il provvedimento a Venezia, ribattono: nessun trucco, quei soldi ci servono per sopravvivere, così dice Costa da Venezia, e quindi insomma c'è questa polemica che anche il Fatto Quotidiano porta avanti nel titolo di pagina 3: la legge di stabilità fa un bel regalo ai deputati. Venezia affonda, ma non con le tasche vuote. 100 milioni, niente meno che dai relatori Pierpaolo Baretta e Renato Brunetta, entrambi veneziani. Anche Baretta è di Venezia. Brunetta lo so per certo, Baretta non lo sapevo. Oh, tra l'altro, ricordate la performance straordinaria di Giuseppe Marinello, onorevole, due giorni fa, vicepresidente della Commissione Bilancio, che ha trovato 100 milioni, no, un milione per i lavoratori socialmente utili, che vale soprattutto per due città, Sciacca, una delle due è la sua città natale, città per cui vale Sciacca, vabbè, coincidenze, no, non coincidenza, ve lo dicevo, ho lavorato per il territorio e anche i soldi per il Belice, il terremoto del Belice del 68. Gli è andata male invece, scrive così il Fatto Quotidiano, sulla pesca, attività che interessa assai le sue terre, Sciacca appunto, voleva stanziare 2,4 milioni di euro in un triennio per ridurre le aliquote sul carburante, ma in questo caso il provvedimento, l'emendamento è stato bocciato e quindi non ce l'ha fatta. Il Sole 24 Ore mette anche in prima pagina l'intervento di Napolitano e gli stati generali della cultura. Sulla cultura, no alla logica dei tagli lineari, questo è il titolo dell'articolo a pagina 3. Gli stati generali hanno visto appunto un richiamo veemente di Giorgio Napolitano sul coraggio di non tagliare sul patrimonio, sulla ricerca, di sfrondare in termini di burocrazia. Era presente anche mezzo governo, Ornaghi, Profumo, Barca e altri, che sono invece stati interrotti dalle proteste della platea. Insomma, l'importanza di salvare i beni culturali e gli stati generali della cultura è il tema di apertura del Sole 24 Ore. Allora, avete risposto a questo quiz? Chi ha detto un giorno mi dovranno chiedere scusa? Sarà stato Nelson Mandela? Sarà stato Aung San Suu Kyi? O sarà stato Francesco Schettino, comandante, in un'intervista esclusiva al Giornale che trovate a pagina 17? Ormai è tutto svelato, vabbè, in questa quiz farsa. Schettino, dovranno tutti chiedermi scusa, intervistato da Gianmarco Chiocci e Simone Di Meo. Salve, sono Francesco Schettino, quello della Concordia. Dovete starmi a sentire perché si è superato il limite. Così inizia l'intervista di Schettino. Sul mio conto leggo solo indecenti falsità. Ci sono prove che raccontano completamente un'altra storia e dimostrano come il sottoscritto non sia Capitan Codardo. Non faccia la vittima, comandante. Non ci penso proprio, le vittime sono altre. Ma non accetto più di essere massacrato con menzogne infamanti. E siccome hanno parlato tutti e in tanti hanno distorto la realtà, adesso parlerò io. Sto scrivendo un libro. E poi parla della famosa telefonata, quella col comandante De Falco, no? E lui, sapete cosa dice, quello, ricordate, salga a bordo, cazzo, no? Ebbene, Schettino risponde così: guardate che è lui la vittima. Una vittima, De Falco, chiedono gli intervistatori. È una vittima, è finito in un terribile gioco, più grande di lui. Ho provato a giocare in modo non corretto. Lui ha provato a giocare in modo non corretto, cioè lui accusa De Falco. Infatti, non essendo presente sul posto, non è stato in grado di sfruttare a dovere gli unici strumenti che aveva a disposizione, i miei occhi e la mia competenza. Riascoltate quella telefonata, dice Schettino, riascoltatela. Sono io che cerco di rassicurare De Falco e non si è mai visto un naufrago che prova a calmare il suo soccorritore tentando di fargli capire che cosa fare. Questa è la lettura della telefonata di Schettino, che poi sul Fatto la domanda: senta, lei ha abbandonato la nave? Dice: facile parlare. E poi gli dicono: è facile parlare, lei era lasciato su uno scoglio. Ma sì, facciamo anche dell'ironia, risponde Schettino. Riguardo l'abbandono della nave, guardi, quando la Concordia ha iniziato a ribaltarsi sul lato destro, mi sono ritrovato il pavimento ruotato di 90 gradi, non potevamo più camminare, non c'erano appigli, qualcuno meno agile di me è finito fuori bordo. Eppure, nonostante l'acqua avesse allagato il ponte, ho continuato ad aiutare i passeggeri a salire sulle ultime scialuppe che facevano la spola con la terraferma, solo che l'esplosione dei finestroni dei ponti e l'inondazione che ne è seguita han provocato un repentino ribaltamento della nave, che si è trovata così a intrappolare una scialuppa con i bracci di ferro delle gru. Per di più, il guidatore, preso dal panico, era andato completamente nel pallone. A quel punto, in precario equilibrio, potevo scegliere di morire da stupido, schiacciato dalla nave, o scendere. Ho scelto la seconda strada. Ho dato anche un cazzotto al guidatore, che si era paralizzato dalla paura. Il comandante Schettino sul Giornale, a pagina 17, ed è tempo di Giornale Radio.